È stato uno dei primi film a essere proiettato a Berlino, quindi che si confrontava con la finzione. Certo. Poi. È un film che racconta l'impatto del reale e l'impatto, la forza della verità del momento. Perché poi il sottotraccia della storia del bambino è una storia. La storia di Samuele è uno stato d'animo. È uno stato d'animo che ci porta tutto, sempre fuori dall'isola, quindi ci porta sempre oltre Lampedusa. Hai avuto la sensazione che questo film fosse soprattutto la cosa giusta al momento giusto anche? Sì, all'inizio pensavo che fosse appunto la storia ci avesse superato appunto il vuoto di Lampedusa, raccontare l'isola eccetera, poi invece c'è stata una crescita esponenziale, no? L'immigrazione è diventata non soltanto più un problema italiano ma europeo, un problema mondiale. Ecco, quindi diciamo che è andato in parallelo poi il percorso. Quindi la verità, cioè la verità dei fatti, la morte vera, come dicevi, filmata, che porti sullo schermo, non sconvolge ma conquista. Il film è stato costruito per quel momento, cioè è stato un montaggio molto. Jacopo Quadri ha fatto un lavoro straordinario assieme a Fabrizio Federico, eravamo in tre e abbiamo montato a Lampedusa. È stato importante anche portare il montaggio a Lampedusa. Certo. Come certo. Una restare immersi nel momento. Rosy, oltre ai migranti, altri protagonisti sono i lampedusani. Uno per tutti, dottor Pietro Bartolo. Risentiamo cosa ha detto, qualche frase che ha detto a Corrado Formiglia a Piazza Pulita. Da noi li chiamano i turchi, è un modo di dire, no? Sono arrivati i turchi, tutto quello che non è europeo per noi, per loro, per lampedusani, li chiamano i turchi, e quindi sono arrivati i turchi, ma dico sono arrivati, erano 7.000, sicuramente erano più di noi, tant'è che il centro era pieno, avevamo messo a disposizione tutto quello che avevamo, i lampedusani cucinavano per loro, facevano a gara a portare vestiti, hanno messo a disposizione le proprie case, le barche, per aiutarli, non è successo mai niente, non hanno litigato, non si sono infastiditi uno con l'altro, anzi si sono proprio integrati perché sono rimasti parecchi giorni, sono rimasti quasi 2 mesi con noi e quindi insomma c'è stata una convivenza pacifica. Fantastico, e Bartolo dice anche testualmente, i lampedusani sono pescatori che accolgono tutto quello che gli viene dato dal mare. Ecco, quindi non c'è mai stato un sentimento di non dico di odio, ma insomma di fastidio. Il fastidio viene spesso a Lampedusa quando la stampa impone attraverso dei modelli narrativi e soprattutto così legare l'isola solo all'immigrazione. Quindi lì viene un rigetto verso, perché uno non si sente raccontato per davvero. E soprattutto l'isola è anche un'isola che ha una sua vita. Ma è vero che è stato Bartolo a convincerti a fare il film? Sì, perché io all'inizio non ero sicuro di poter fare questo film e di poter raccontare una realtà così complessa. E Bartolo mi diede una pennetta con 20 anni di storia lì dentro, mi ha detto tu guarda questo materiale e tornerà. Infatti alla fine del film, dopo una volta quasi il montaggio chiuso, era il 20 gennaio, il film già selezionato per il Festival di Berlino, sentivo che mancava qualcosa di molto forte, dovevo chiudere il cerchio e ho consegnato a Bartolo nuovamente la stessa pennetta che lui un anno fa mi aveva dato e l'ha messa nel computer. C'è quella scena molto forte, poi una piano sequenza di 40 minuti, poi nel montaggio abbiamo dovuto chiaramente selezionarla e c'erano delle cose anche fortissime lì dentro e non potevo esasperare anche certe forme di racconto, quindi però quel momento lì per me è stato fondamentale perché si è come decretato una chiusura del film, ecco, c'è stata una riconsegna di qualcosa che di ti aveva ispirato che lui mi aveva dato e lì si è chiuso il cerchio, gli hai detto grazie insomma, ma l'ho abbracciato, dico ridandogli la pennetta, ecco. Senti, tu e lui era molto commosso quel momento lì, infatti si sente anche lì una verità profonda. Sì. Tu hai detto questo film non è politico ma una valenza politica, beh è stato evidente a Berlino, direi, no? Direi di sì a Berlino, però è politico al di là delle mie, perché in sé, alla fine lo è in sé, è un grido d'aiuto, è universale. Non dà nessuna soluzione, non dà nessuna cosa, però c'è sicuramente un grido d'aiuto nel film, comunque il tuo di film richiesta d'aiuto. Il tuo documentario è diventato lo chiamo documentario perché bisogna far rinascere il valore della parola documentario, certo. Ecco. È diventato un caso politico. L'incontro dei capi di Stato, Renzi ne ha regalato una coppia a tutti. Che effetto ti ha fatto quel gesto? Beh, per me questo è un film che va visto al cinema, perché c'è un racconto cinematografico molto forte. Vero. Quindi un pochino mi ha così dato anche un po' di fastidio. L'idea che se vedessero nel computer, poi sicuramente andando distratti, più veloci, distratti, eccetera, secondo me non è il modo giusto di vedere il film. Avrei preferito che lui fosse strumentalizzato? No, perché poi il film non appartiene più a me. Una volta che il film è stato consegnato al pubblico, appartiene al pubblico. Tiene chi lo quindi vuole il gesto usare. Di Renzi, tutto sommato, è un gesto individuale che sicuramente così porta il film a una lettura. Ma ti piace Renzi? Mi piace Renzi. Mi ha chiamato a Berlino e mi è piaciuto quello che ha detto del film. Politicamente vorrei che ci fosse una sinistra non divisa. E io non so quanto poi Renzi contribuisca a dividere questa sinistra qui. Vorrei un PG unito. Dici che divide più che unire? Non lo so, spero. Ma il fatto che abbia vinto a Berlino un film italiano sull'emigrazione, che cosa significa secondo te? Beh, le parole della Mary Streep sono state abbastanza forti quando ha letto la motivazione del film. E ha detto che questo film avrebbe vinto al di là del richiamo politico, perché c'è un racconto di cinema, c'è l'arte del documentario. Cioè ha celebrato il documentario, il linguaggio del documentario e il fatto che appunto il documentario e la finzione possono convivere nello stesso ambito. Però, restando un attimo alla politica, fra i capi di Stato che erano presenti, ai quali Renzi ha dato il film, ce n'è uno che vorresti fosse toccato nel cuore dal tuo film? Beh, qualcuno che ha la possibilità di cambiare quello che sta succedendo, perché è abbastanza vergognoso. I migranti sono ai confini. Ma uno? Il cuore della Merkel? Beh, non forse lo so. Ho visto, c'è una foto della Merkel quando così ha in mano la copertina del film e mi sembra un po' perplessa. Non sei sicuro che la guarderà? Non sono sicuro che la guarderà. E fra i politici italiani uno che vorresti farebbe bene alla salute? Beh, uno che ha definito il film un pippone buonista, che è Salvini. Quindi secondo me dovrebbe vederselo bene prima. Sicuramente non è un pippone, non è buonista. Senti, però interessante il dato della vittoria, al di là di tutto, della vittoria del tuo film, perché è cambiato il modo di valutare le opere se i documentari cominciano a vincere i festival del cinema. Le due parole si avvicinano. Ma secondo me la differenza non è tra documentario e finzione, è tra vero e falso. Sì. E questo nell'arte è sempre così, nella fotografia. Ma è interessante che nel tempio del falso incominci a vincere il vero. Incominci a vincere il vero e soprattutto le storie che appunto hanno una loro esigenza. Quindi di vuol dire contante. Che c'è un bisogno di confronto con il reale. Con il reale sicuramente, ma insomma il cinema nasce anche, no? Con un confronto del reale, con il reale. Insomma, è sbagliato tenerli separati, diciamo. L'ha dimostrato Venezia, Esatto. Quindi ecco, in un altro momento tragico per l'Italia, il terremoto dell'Aquila, tu eri lì per insegnare agli aquilani a raccontare, a testimoniare la propria tragedia, partendo da dove? Partendo dagli incontri, perché c'è sempre la tragedia che è uno sfondo, è un sottofondo ed è un background molto forte. Però io cerco di insegnare, a me piace molto avere un confronto con gli studenti, l'ho fatto da anni e in varie scuole. Cerco di insegnare appunto che l'incontro è fondamentale, quindi l'incontro con i personaggi e tenere lo sfondo della tragedia dietro. Quindi è stato cercare di dare un punto a delle storie piccole e apparentemente insignificanti che poi però fanno sì che ci sia una narrazione più ampia. Ecco Rosi, che cosa è uscito da quell'esperienza dell'Aquila? È uscito che secondo me c'è stato un cambiamento, questi studenti a un certo punto hanno capito che si può fare il cinema attraverso il documentario. Ecco. Ma c'è un documentarista del tuo genere, diciamo così, nel mondo a cui ti senti vicino, non dico ti ispiri, ma insomma che... Beh, Fiarti sicuramente, un grandissimo film dove appunto la realtà era trasformazione, quindi partire da qualcosa di molto forte e poi far sì che questa realtà diventi qualcos'altro. Come è capitato per il Sacro Gra quando ha vinto a Venezia, sentiamo... Vince a sorpresa la realtà senza finzioni, raccontata da Gianfranco Rosi in Sacro Gra, il Leone d'Oro per il miglior film a Venezia. A trionfare un documentario che per la prima volta nella storia del cinema del Lido ottiene il riconoscimento più ambito. Finalmente si confronta con la finzione, dice Rosi ritirando il premio. Il documentario è cinema. documentario cinema. E com'è stato, domanda stupida, è stato più emozionante Venezia o Berlino? Venezia è stata la prima volta, pensavo che non si scorda mai, il primo leone non si scorda mai, infatti continuo a dire ancora adesso il leone, invece l'orso. Sì. E comunque due grandissimi presidenti di giuria, Bernardo Bertolucci e Meryl Streep, cioè meglio di così, proprio cioè, di cinema. Con... Puoi cambiare mestiere praticamente ormai. No, comunque stato difficile, non pensavo veramente per la seconda volta di seguito di riuscire a avere quell'emozione così forte, perché quando hai in mano un premio così importante... Certo, ma se per Fuoco a Mare, l'abbiamo detto, sei stato più di un anno a Lampedusa, per trovare e filmare le storie del Sacro Graal, il raccordo anulare, invece quanto ci ha messo? Ci ho messo 2 anni, però quella è una realtà anche molto più complessa, ci sono 3 milioni di persone attorno al raccordo anulare, quindi cercare la sintesi e la trasformazione di questo spazio è stato molto più complesso. L'isola era piccola, era intima, ho avuto a fianco una persona meravigliosa che mi ha introdotto, che si chiama Giuseppe Del Volgo, è stato un mio aiuto alla regia, lui mi ha proprio aiutato a entrare nelle case e soprattutto avere la fiducia delle persone, perché questo è fondamentale nel mio lavoro. Ma appunto, ma nel GRA, come hai fatto a scegliere le storie? Sono storie in movimento anche molto. Storie in movimento sono sempre stati degli incontri, anche lì molto forti, quindi degli innamoramenti con i personaggi. Poi una volta avuto l'incontro ho fatto proprio il vuoto attorno, infatti poi la storia sul raccordo, questi 3 milioni di persone sono diventati 6-7 personaggi, certo, è la stessa cosa sull'isola. Certo, ma tu hai detto che ami il tempo e gli esseri umani, ecco, il tempo sul grande raccordo anulare è un tempo diverso dagli altri luoghi? Sì, quello è un tempo circolare, un tempo proprio che giri all'infinito, no? Certo. Mentre invece sull'isola c'era più il tempo, la storia del film era la storia dei personaggi, quindi sono anche riuscito probabilmente ad andare anche più seguendoli per un anno, c'è la storia di questo bambino e la trasformazione attraverso il tempo, quindi le cose che succedevano eccetera, quindi probabilmente è un film dove sono andato più a fondo all'interno dei personaggi. Senti, ma anche tu hai una bella storia da raccontare personale, sei nato ad Asmara, l'abbiamo detto, poi ti sei trasferito a New York, come mai ad Asmara? Ad Asmara, motivi di famiglia, motivi di famiglia, e poi il tempo che ho percorso lì è anche legato a una tragedia familiare che a me ancora mi scombussola, e quindi passo oltre. Perché New York è stata, dopo medicina, ho lasciato medicina scappando da medicina dopo 2 anni, dopo il biennio. E ho vinto un concorso alla scuola di cinema di New York e mi sono trasferito, ho fatto 3 anni il master, stato ben felice. Cinema, e poi New York è diventata come la mia seconda casa. Ecco, sì. Ma tu hai doppia cittadinanza italiana americana, dove ti senti di più a casa? Io mi sento a casa dove riesco a girare i miei film, quindi ero a casa a Lampedusa e adesso non so dove sarà la mia casa. Comunque l'America è, per me è New York, e New York è stata la mia crescita anche così da un punto di vista tecnico-professionale. Quindi c'è sempre un richiamo enorme, anche se la città è cambiata talmente tanto che... Cambia la velocità della luce proprio. Senti, l'America in questo momento è divisa come non mai. Che effetto ti fa un personaggio come Trump? Mi fa molta paura un molta personaggio paura. Come Trump, sì. Ma che cosa rappresenta dell'America profonda veramente? Secondo me è proprio la parte peggiore dell'America, dove c'è proprio l'ignoranza e la mancanza di visione. Ma la mancanza è stato sottovalutato però, ma come tutti questi personaggi che arrivano un po' così all'improvviso, no? Sono sottovalutati e poi diventano dei riferimenti. Ma è il segno in qualche modo che è morto il sogno americano? Ma perché è molto divisivo. Io spero assolutamente di no, perché io spero che l'americano sia anche avere... Vince. Mettiamola così, secondo te è possibile? Secondo me no. Il fatto che sia una donna è fondamentale adesso in questo momento a contrapporsi a Trump. Mm. Tu voterai in America o no? Voterò, sì. Quindi immagino per chi voti. Voterò per Hillary Clinton, certo. Senti, torniamo in Italia. Se i documentari vincono i festival, nelle sale vince Checco Zalone però. Ci sarà un momento in cui anche i documentari... vinceranno anche al botteghino, secondo te? Sai, questo film ha avuto un enorme successo, dicono anche di pubblico, però quando uno va a vedere i numeri sono veramente imbarazzanti, perché si parla di 120.000 persone, 80 sale o 70 sale in cui è distribuito il film, e quindi i numeri sono numeri. Sono veramente sono i numeri che contano alla fine, e sono abbastanza tristi i numeri. Ma perché stravince Checco Zalone ancora, allora, secondo te? Perché forse le persone hanno paura ancora della paura della parola documentario e pensano appunto di dover. Io mi ricordo non quando... c'è la cultura del documentario, non, non è stata c'è la implementata. Del documentario, ancora legata alla paura. Io ricordo a New York una sera alle 11 Oddio, di sera. C'è un documentario prima del film. No, aiuto. C'era una mamma e una bambina e la ragazza non riusciva a scegliere il film. Erano le 11 di sera, la mamma dice: se entro 10 minuti non scegli il film da portare a casa, prendo un documentario. Era come ancora, e secondo me è legata a quella paura. Ma no, tu della l'hai visto Zalone? No, non l'ho visto. Non l'hai, quindi non no. Sei Zalone, sì, Zalone, no, non si può dire. Oh, è molto simpatico, ho visto dei pezzetti così, sì. E quindi sicuramente capisco. Senti, che è più America, facile andare a vedere Zalone. In America non... invece funziona diverso, si vince l'Oscar perché si vince al botteghino, le due cose stanno insieme, diciamo. Beh, ancora divisa in America, perché c'è l'Oscar per il documentario e l'Oscar per il miglior film, e sono ancora due realtà separate. Ancora, sì. Purtroppo anche Michael Moore non ha contribuito al documentario, insomma, che ma piace il mondo di Hollywood è un mondo che vota democratico normalmente, incide sulle elezioni americane o no? In parte sì, però secondo me con un fenomeno così grosso come Donald Trump sarà molto difficile anche per Hollywood combatterlo. Sì, senti, a proposito di sogni, no? L'Oscar, ma i lampedusani si sono un po' allargati, ormai vorrebbero il Nobel per la pace per il film, che dici? Sì, secondo me Lesbo e Lampedusa sarebbero due candidati fantastici, perché è come una linea, no? Che sta combattendo. Abbiamo detto che i due, che l'Istituto Luce e Rai Cinema hanno finanziato il tuo film, hanno fatto bene, però non è ancora una linea strategica quella del servizio pubblico sul finanziamento ai documentari, dovrebbe esserlo? Ma secondo me lo è, lo sta diventando, lo sta sempre diventando. Di più, perché Rai Cinema ha prodotto tantissimi documentari in questi ultimi anni, parlo del film di Pietro Marcello, Minervini, certo, sì, e tanti altri. Io credo che in Italia siamo veramente all'avanguardia su questo nuovo tipo di cinema. Quindi è un ruolo specifico che il servizio pubblico dovrebbe sviluppare. Sta già sviluppando, lo sta guardando con grande attenzione. Tu ne hai parlato anche? Ne ho parlato con De Blocco, con la Paola Malang, che lei sono anni e anni e anni che combatte, però sarebbe interessante appunto approfondire, certo, e far sì che il documentario diventi appunto parte di un integrante del progetto di servizio pubblico. Senti, e il tuo nuovo progetto qual è? Il prossimo, diciamo? Ogni volta che finisco film dico vorrei fare un anno di calma ma insegnando, che mi piacerebbe ancora tornare. Ma dove insegni, quando insegni? Ma ho fatto tante esperienze in Svizzera, negli Stati Uniti, in Francia, adesso in Inghilterra. Ti arricchisce molto? Mi arricchisce molto il contatto con gli studenti, sì, ed è fondamentale secondo me. E però un progetto nel cassetto ce l'hai sicuro? Ce l'ho sicuro il progetto. E non ne parli? No, non ancora, perché è legato a un paese che sta cambiando moltissimo in questo momento, secondo me può essere un punto di partenza. Neanche il nome del paese, diciamo, no? Potremmo dire l'Iran. Ah, l'Iran, fantastico. Beh, veramente merita. È un punto di Pietraggio inizio. Buttafuoco ti può fare da chaperon, perché lo conosce guida perfettamente. Senti, ma i cieli di Lampedusa, sotto i quali tu hai raccontato la vicenda di Foca a Mare, sono sempre grigi e nuvolosi, ma prima o poi il sole tornerà a splendere anche lì, secondo te? D'estate splende il sole a Lampedusa, sì. Io ho fatto un film invernale, e anche perché la luce per me è fondamentale, diventa una specie di compagno. Io sono fotofobico, a me piace raccontare le storie un po' così, protetto dalla luce. Giusto. Però appunto In quel senso, quel Mediterraneo, questa luce bianca meravigliosa che praticamente fa tutto lei. E purtroppo la scena più difficile, più dura del film era anche una giornata di sole, quindi forse l'unica giornata di sole del film che è legata alla tragedia. Grazie Gianfranco. Grazie a voi. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità.